Benvenuti, benvenute, ben sintonizzati e sintonizzate, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, queste Tracce di Cinema, ricominciamo dopo un po' di tempo. Emozionata? Sì, veramente. Dai che ce la facciamo, dai. Sì, sì, ci proviamo. E beh, il film di oggi è un filmetto, beh, di un bravo regista, noi l'abbiamo, ne abbiamo parlato, abbiamo di molti dei suoi film. Guarda, stavo notando, siccome oggi eravamo in dubbio se sentire Patrizia Salvatori, che però sta male, è influenzata a letto, proprio con lei avevamo fatto l'altro film, Cameron Crowe, Vanilla Sky. Sì, infatti parliamo di Cameron Crowe, il film di oggi è un film uscito in America nel 2000, in Italia nel 2001, è Almost Famous, un film che però prende spunto le vicende veramente accadute al regista, che prima di essere regista è stato un giovane reporter per una nota rivista musicale americana che si chiama appunto Rolling Stone, e parla un po' di questa sua esperienza che ha avuto mentre lavorava come giornalista. Era giovanissimo, seguiva, gli venne data la possibilità di seguire i Led Zeppelin nel loro tour americano, erano già famosissimi in Europa ma non erano ancora così famosi in America, e lui li seguì, e insomma il film è ispirato a questo. È un film, è un filmetto, perché secondo me non brilla di sapienza, né dal punto di vista registico, né dal punto di vista della sceneggiatura, né dai costumi, né tantomeno dalla fotografia, insomma dalla tecnica, ma brilla per la sua colonna sonora. Sono più di 50 pezzi utilizzati. Sì. Va detto che nei suoi film la colonna sonora è sempre qualcosa di interessante. Sì, sì, lui è un grande appassionato di musica, infatti è l'inizio della sua vita è stata proprio quella di essere giornalista critico musicale, e quindi insomma sono più di 50 pezzi all'interno della colonna sonora, tutti bellissimi, che vanno dagli anni 60 agli anni 70, c'è di tutto, dai Led Zeppelin, David Bowie, Jimi Hendrix, Johnny Mitchell, Stooges, veramente Black Sabbath, il meglio del meglio di quel periodo, lì almeno secondo noi. E niente, io direi che possiamo iniziare, poi magari diciamo qualcosa in più. To destroy. Gli Stooges con Search and Destroy. Devo notare che Iggy Pop and the Stooges, ma anche la stessa Patti Smith, sono considerati tra i padri fondatori del cosiddetto punk. Sì, infatti mo ti racconto un po' di cose su questo pezzo, bellissimo, io mi ci ritrovo tanto, cerco e vorrei distruggere quello che non mi va bene. E registrata per il loro terzo album Raw Power del 1973, è stata reinterpretata da un miliardo di artisti: Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols, Sid Vicious, Dead Boys, i Peaches, i Verdena. Search and Destroy è di una violenza inaudita e con queste sonorità proprio sporche, proprio marce, è proprio l'inno del punk, è considerato proprio l'inno del punk più puro di tutti. E quando il Sir Iggy Pop la concepì, era sfiancato fisicamente e psichicamente dalla droga, non, da questa canzone non si capisce che non si era affatto arreso, e infatti ha un'energia paurosa e inneggia proprio alla violenza e alla distruzione per tutto ciò che non va. E l'iguana Iggy Pop fonda all'alba dei 60 i Megaton 2, dal cui nucleo sbocciano dei Iguanas e i Prime Movers. Scampato al servizio militare e abbandonata all'università, sprofonda in un vortice di droghe e sballi. Li fanno compagnia i due fratelli Ron e Scott Ashton, rispettivamente chitarra e batteria. Insieme fondano gli Psychedelic Stooges. Tra l'altro l'iguana era il suo soprannome. Esatto. E il bassista del gruppo è loro amico Dave Alexander. Si dice che Iggy sia stato il vero inventore dello stage diving. Sai che cos'è? È il tuffo verso il tuffo. E infatti ha raccontato Iggy: il mio scopritore che mi introdusse all'Elektra Records rimase incantato non dalla nostra musica, ma dalla violenza con cui mi esponevo all'audience quando suonavamo nei locali di Los Angeles. Danny Fields, appunto dell'Elektra, del 1968 è a Detroit per ingaggiare gli MC5, che saranno degli Stooges i loro più accaniti sostenitori. Si innamora artisticamente del gruppo assistendo proprio a un loro concerto e li introduce in questa label, una delle più lungimiranti nella storia del rock, e suggerisce, è proprio lui a suggerire ai ragazzi di eliminare il termine psychedelic, che non era più così in voga, e così restano gli Stooges. E poi nel 69 viene pubblicato sempre per Elektra l'album di esordio di questa band, che diventerà proprio icona di un movimento che celebra il degrado morale e psichico della razza umana, e sarà per sempre un'icona contro la società consumista e il culto del benessere. E poi il secondo atto viene messo in scena nel 1970 con Fun House, inizia un tour pazzesco. Cominciano però i primi malumori all'interno della band. Nel 71, a causa di problemi dovuti all'abuso di cocaina di Iggy, Ron, Scott e Dave, si lasciano. Ma è a questo punto che David Bowie interviene. Era il periodo di Ziggy Stardust, era l'estate del 1972, invita pubblicamente Iggy e soci a lavorare per un nuovo album, appunto Raw Power, nel 1973, che è proprio il canto del cigno degli Stooges, perché a causa poi, dopo, della forte dipendenza da eroina del nostro Iggy, si sciolgono, e poi lui verrà veramente salvato nel vero senso della parola da David Bowie, perché partiranno insieme per Berlino. Iggy per cercando di uscire dall'eroina, Bowie dalla sua dipendenza da cocaina, si trasferiscono a Berlino, ed è proprio David Bowie che firma Iggy Pop i più importanti e sublimi album mai scritti nella storia della musica: The Idiot e Last for Life. come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be minuti e 36 secondi. Yes, con Roundabout. Devo dire, questo è il mio brano preferito degli Yes, e in questa colonna sonora ci sono almeno 4 tracce di quelle che io porto sempre con me sul cellulare. Sì. Quindi figuriamoci, insomma. Bene, bene, quindi insomma è piaciuta anche agli ascoltatori, grazie dei trillini, e salutiamo Valerio che è all'ascolto. Sì, sì, proprio un gran pezzone questo degli Yes, brano di apertura dell'album Fragile, appunto, di questa band inglese. Avete sentito l'inizio quanto è bello? L'inizio è un flash con questa nota di pianoforte che sale, sale, sale, sale e introduce quell'arpeggio meraviglioso, e poi chitarre. Che pezzo meraviglioso, che begli anni che sono stati quelli. È stato anche un brano usato anche in altre colonne sonore, sì, ha avuto un enorme successo ed è considerato un classico anche proprio per tutte le variazioni che ha al suo interno: stacchi rock, cori, momenti rallentati. Tutto reso unico e strepitoso dalle grandi capacità tecniche dei 5 musicisti. Con questo album inizia la collaborazione tra gli Yes e questo artista molto famoso che è Roger Dean, che firma tutte le loro copertine. In questa in particolare, che è bellissima, c'è un piccolo pianeta sul davanti, sul dietro c'è un pianeta che incomincia a spezzarsi, a rompersi, a sgretolarsi, e la popolazione fugge nello spazio mediante una barca a vela di legno. Ed è veramente un gran bel pezzo. Thank you. I'd rather think of dying instead. And maybe you remember the last time you called me to say we were through. How it took a million tears just to prove they all. Todd Rundgren con It Wouldn't Have Made Any Difference. Non avrebbe fatto qualche differenza se questo album non fosse stato pubblicato, autoprodotto da questo cantautore statunitense Todd Rundgren. Infatti è stato uno dei primi esempi di produzione indipendente nella storia del rock americano, legandosi proprio a quel concetto di forma distributiva detta Do It Yourself, il cui slogan era espresso appunto dall'acronimo DIY, Not Amy. Nella storia del rock è stato il primo proprio a ideare questo concetto di musica libera e indipendente dalle major, proprio per contrastare il capitalista concetto di distribuzione musicale imposto dalle grandi etichette. Ed è stato considerato un po' uno stregone lui, perché fin dall'inizio ha creato una sorta di musica universale che aveva l'obiettivo di superare barriere e definizioni che dovevano essere e doveva essere un veicolo dissacratorio, un mezzo per liberare le proprie manie ossessive a favore di ogni forma creativa che secondo lui doveva e poteva essere raggiunta e celebrata con ogni mezzo. E cioè, è ovvio che quali sono i mezzi negli anni 70, Fede. I Black Sabbath con Paranoid, mia cara Ottavia. Ho rotto con la mia donna perché non poteva aiutarmi con la mia mente. La gente pensa che io sia pazzo perché me ne rimango imbronzato tutto il tempo. Così recitavano le parole di questo altro brano epocale, Paranoid, dei Black Sabbath, secondo singolo estratto dal loro omonimo album del 1970, che si stima abbia venduto, Fede, soltanto 10 milioni di copie in tutto il mondo, ed è considerato da molti come il miglior album dei Black Sabbath e il secondo alcuni il migliore album heavy metal di tutti i tempi. E questo è un brano considerato come i più influenti nella storia dell'heavy metal, mi pare anche chiaro, ed è un brano abbastanza semplice perché è basato su un riff di chitarra semplice, e nel testo si parla di sociopatia e della devianza mentale di questo protagonista. È un classico, è proprio un classico di quegli anni, ed è stata interpretata da tantissimi altri artisti: Megadeth, Adam Parfrey, Green Day, Queens of the Stone Age, Metallica e vabbè altri 200.000. Yep. when all your ears have turned away. But now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all stays? Il discorso fatto prima per gli Yes va applicato anche ai Led Zeppelin, perché qui ce ne sono diverse e almeno due, ossia questa That's the Way ma anche Rain Song, sono tra le mie predilette. Due cose solo sui Led Zeppelin: questo brano è intitolato That's the Way, appunto parla di ecologia, insomma è stato molto suonato dai Led Zeppelin. Pensa Fede che i Led Zeppelin non hanno mai dato nessun brano per nessuna colonna sonora, soltanto per questo film. E forse perché la colonna sonora di questo film è costata 3 milioni e mezzo di dollari. Niente, due spicci De proprio. Spicci. Vabbè, insomma, dei Led Zeppelin di cui sapete già tutto, insomma, ascoltatori. Oppure andatevi a informare. Della radio di Radio Onda Rossa sanno tutto, sono tutti bravi, dico soltanto delle banalità. Dirò anche che questa sarà probabilmente una banalità di cui sarete tutti quanti al corrente, che hanno suonato solo una volta in Italia. Il 3 luglio 1971 al Pala Vigorelli di Milano sono stati ospiti del Cantagiro. Si dovevano esibire dopo gli artisti italiani. Secondo David Zard, che era l'impresario rock famosissimo a quei tempi, ci furono dei disordini terribili e la colpa fu proprio dei Led Zeppelin, che, disse lui, invece di suonare alla fine del concerto vollero aprirlo. Zard dichiarò che il concerto iniziò scatenando l'ira di chi era ancora in fila per i biglietti. Furono inevitabili quindi le cariche della polizia. Indipendentemente dalla colpa, i disordini sono veramente incredibili. Prima ci sta una violentissima contestazione a fischi e lattine verso i canzonettari del Cantagiro che aprivano la serata. Poi durante l'esibizione delle Zeppe senti un po' che succede, il putiferio. Robert Plant non fa tempo a completare il primo brano che la musica si ferma, la polizia spara lacrimogeni a tutto spiano, si alza il fumo. Alla terza canzone altri lacrimogeni, una carica della polizia violentissima con la gente terrorizzata che in preda al panico invade il palco e Plant disgustato dirà: quella sera credemmo di morire, fummo costretti ad abbattere una porta per rifugiarci nei camerini. Quando cercammo di recuperare gli strumenti scoprimmo che era stato tutto distrutto. Non verremo mai più a suonare in Italia e la promessa è stata mantenuta. The Seeds con Mr. FOMO. Questa canzone è stata bandita da tutte le radio nel 1967 perché era un chiaro tributo alla coltivazione ai coltivatori di marijuana e a tutti i coltivatori diretti di questo paese e del mondo. Noi la dedichiamo perché cresca libera e forte sopra ogni balcone, in ogni giardino. Andiamo avanti con la musica. Now she's in me, always Se tu mi dovessi chiedere una canzone per Elton John, io ti risponderei Tiny Dancer. E questa la dedichiamo a Valentina. Beh, mi sembra giusto. Io invece dedico il prossimo pezzo a a Chiara, a Tait e a tutte le pantere bianche rimaste che sono un po' in via di estinzione ma sono ancora ferocissime. Yeah. Voodoo Child per Jimi Hendrix, tanti trillini di gradimento. Sì, sì, tre assoli intervallati soltanto da parole deliranti, l'inno delle pantere nere, bianche, gialle, non ci interessa il colore della pelle, purché siano affamate di rivoluzione. Andiamo avanti con la musica perché c'è poco tempo, Attica Blues sì, è arrivata. No, io direi diciamo tutto adesso perché poi ci salutiamo con un brano abbastanza lungo, quindi ci diamo già appuntamento a giovedì prossimo. Sì, ci diamo già appuntamento a giovedì prossimo. Salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno trillato e ci hanno ascoltato e ricordiamo che questa radio non vive di aria, quindi sottoscrivete, aiutateci a continuare a far vivere questa radio che è entrata nei 40 anni, stiamo per festeggiare e vorremmo vivere ancora con voi altri 40 anni di storia, di comunicazione, di informazione, antagonista, di musica e di tantissime altre cose che questa radio ha fatto per tutti. Allora, ci salutiamo con David Bowie, un brano non suo, I'm Waiting for the Man, e se poi Attica Blues non sarà ancora cominciata, possiamo anche aggiungerci Raspberries, avevi chiesto sì, Gold Sì, Way. Che la volevo vediamo dedicare a mio amico Armando. Ok, cominciamo con David Bowie, un abbraccio, buon proseguimento, a giovedì prossimo.